Doino, io mi chiamo Florenzo Doino. Florenzo sono Doino. Il candidato presidente del Partito Comunista dei Lavoratori alle elezioni regionali. E vabbè, ha detto tutto lei, io lo volevo dire io, invece l'ha detto lei. Scusa. Senta, no, per carità. Cerchiamo di fare ordine in questa galassia infinita dei partiti che più o meno erano tutti dentro. Dei movimenti che erano tutti dentro Rifondazione Comunista, diciamo, no? Allora, abbiamo sinistra, partiamo dalla destra, che c'è? Dalla destra della sinistra, che c'è? Sinistra, Ecologia e Libertà, no? C'è Sinistra e Libertà che, appunto, ha rinunciato a una prospettiva di trasformazione socialista. E vabbè, questa la stessa Rifondazione Comunista, credo che sia... con tutte le sue contraddizioni. Ma dove si scusi un attimo, Doino, scusi se la interrompo, ma lei, ma dove si trova? Segue il centro-sinistra e quindi non mi sente. Gli interessi della borghesia italiana. Certo, la borghesia italiana. Si perdoni questa affermazione, ma è così. Noi perdoniamo, per carità. Siamo qui per perdonare. Sul terreno del sottoriformismo. Sottoriformismo. No, scusi. Sono i militanti. No, Doino, scusi un attimo, scusi. Doino, si fermi un attimo, urge una spiegazione. Cos'è il sottoriformismo? Ma non è neanche il buon riformismo. Eh no, certo. È l'accontentarsi di partecipare alla gestione del capitalismo nell'illusione di strappare qualche conquista per il movimento dei lavoratori. Nell'illusione di strappare qualche conquista per il movimento dei lavoratori? Nei fatti poi non si realizza. E questo come si chiama? Lei lo chiama sottoriformismo? Scusi, la differenza tra riformismo e sotto... è realizzabile quando le condizioni dello sviluppo capitalistico lo consentono. Certo, la differenza... è stata una stagione riformista, ma non è questa. Ma la differenza tra riformismo e sottoriformismo qual è? Solo il sotto? Cioè uno, il sottoriformismo è sotto il riformismo. La caricatura del riformismo. Del riformismo. E chi... è l'operato dei partiti della sinistra all'interno del governo Prodi, per esempio. Ho capito. Per esempio, e dunque Rifondazione Comunista era un partito sottoriformista. Sì. E oggi chi sono i sottoriformisti? Com'è? Oggi chi sono i sottoriformisti? Ma sì, appunto, la dirigente di Rifondazione Comunista. Cioè la Federazione di Sinistra, come si chiama adesso? Federazione di Sinistra. Sì, la Federazione di Sinistra, appunto... in modo molto assurdo partecipano alle missioni militari mentre dicono di essere contrari, sono contro la precarietà del lavoro e votano quando partecipano ai governi. Ho capito. Poi adesso però questo l'ho capito, penso che non siano neanche sottoriformisti. E che sono se non sono se non sono sottoriformisti, che sono allora? Com'è? Se non sono sottoriformisti, che sono, Doino? Ma sono una contraddizione, una grossa contraddizione.